was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, la primissima notizia può essere tacciata di interesse privato in atti d'ufficio, perché le coordinamento tutte vogliono fare tanti auguri di buon compleanno a Elena. E poi volevamo raccontarvi un attimo com'è andato l'ennesimo tentativo di accesso questa mattina alla sede femminista e lesbica del 22 di Via dei Folci. Prima di tutto appunto è l'ennesimo accesso di tutta una lunga serie. Però stamattina si è presentata l'ufficiale giudiziaria con una grinta particolarmente evidente, portandosi anche il fabbro, e voleva a tutti i costi la forza pubblica. Ha chiamato anche il 113, che chiaramente non è venuto, e ha rimandato comunque l'accesso al 12 di marzo, il prossimo accesso. Diciamo che conclusione di tutta la mattinata è la sensazione che il livello, diciamo, dello scontro si sia un po' alzato. Quindi per quanto riguarda le decisioni da prendere, eccetera, si faranno delle riunioni tra compagne e decideremo il da farsi, e comunque speriamo che il 12 marzo siamo ancora più saremo ancora più numerose di oggi, che eravamo abbastanza. Allora, intanto volevamo iniziare parlando della sentenza per lo stupro dell'Aquila, che c'è stata il 31 di gennaio. E la sentenza ha previsto 8 anni per stupro e lesioni gravissime per il militare Francesco Tuccia. E mentre diciamo che dalla sentenza è stata stralciata l'accusa di tentato omicidio, che invece era stata richiesta. Questa sentenza ci ha aperto una serie di riflessioni, perché di fatto una sentenza da sola di per sé è difficilmente giudicabile, dato che è l'espressione di come si pone in quel momento la magistratura e questo tipo di sistema nei riguardi di quello che è avvenuto. E appunto sicuramente bisognerebbe confrontarla con qualche altra sentenza e fare un po' di conti in proposito. Per così, tanto per capire come si muove la cosiddetta giustizia in questa società e fare un confronto tra le condanne che questa società commina, no? Allora, 8 anni per stupro e lesioni gravissime, 6 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta, 2 anni e 6 mesi per resistenza, dai 6 ai 12 anni per saccheggio e devastazione, 6 mesi per accattonaggio. Allora, Scusami, proprio di recente, no? Degli articoli 1 che vengono combinati a tutti. Per esempio, adesso c'è stato un ragazzo, uno studente di scienze politiche che era tra gli accusati del 14 dicembre, a cui è appena arrivato l'articolo 1, che significa che proviene da una legislazione reale repressiva degli anni 70 e che, diciamo, significa di pericolosità sociale. E quindi questa definizione di pericolosità sociale, no, che questo è alla stregua, insomma, sempre per completare la lista dei reati. E infatti questa lista di reati che cosa rispecchia? Di fatto rispecchia la scala di valori di questa società. E questa scala di valori non dipende da un approccio culturale di un certo tipo nei riguardi di un reato piuttosto che di un altro. È proprio una scala di valori strutturale, e infatti non è dovuta a occasionali scivoloni di magistrati o comunque atteggiamenti personali di questo o di quell'altro giudice. Risponde proprio a una posizione di questa società riguardo alla proprietà, al denaro, a tutto quello che mette in pericolo l'assetto costituito e a tutto quello che riguarda le lesioni o i danni fisici e morali su una donna. Quindi la nostra società da 8 anni per stupro, ricordiamoci sempre lesioni gravissime, questo è uno stupro particolarmente, chiamiamo, efferato, e 6 anni per saccheggio e devastazione, che vuol dire 2 bancomat, una vetrina, una macchina ribaltata, se del caso e neanche detto. E 6 mesi per accattonaggio, per cui se uno è povero, chiede, una è povera e chiede l'elemosina, è giusto che gli venga comminata la galera. Beh, a questo riguardo mi ricordo dello stupro del Quadraro, avvenuto quando la ragazza fu portata nella caserma del Quadraro ad opera di 3 carabinieri e un vigile urbano. Sì. Quella era proprio perché la ragazza era accusata di un furto di un valore di merce veramente ridicolo. 3 magliette all'OVS, e per questo non hanno saltato direttamente il processo e la punizione è arrivata diretta. Ma hanno detto che lei era consenziente, e quindi quando uno è consenziente anzi, rispetto allo stupro del Quadraro mi è venuto in un'altra considerazione, perché lo stupro, quando avviene uno stupro e la donna è consenziente, quando denuncia lo stupro è sovradeterminata da qualcuno che l'ha spinta a denunciare lo stupro. Per favore, mettiamoci una pietra sopra. Ecco, comunque il discorso non infatti i percorsi per affrontare antiviolenza, no, dei centri più istituzionali sono proprio quelli poi di isolare la donna che ha denunciato il fatto da tutta la comunità e la rete che invece vorrebbe supportarla. Tant'è vero, no, che della ragazza del quadrato non si sa nulla, abbiamo saputo a giugno. Non abbiamo potuto neanche inviare le lettere. A giugno si è saputo da un trafiletto di giornale che c'era stato un incidente probatorio in cui lei era stata interrogata. Chiaramente si è saputo da un trafiletto microbico il giorno dopo in ennesima pagina, notizia zero, saputo per caso. Comunque c'è stato l'incidente improbatorio in cui lei è stata interrogata dai giudici alla presenza degli avvocati della controparte, che sarebbero sempre controparte, molto asettico come termine, che sarebbe tra i carabinieri e il vigile urbano. Noi di questo non sappiamo nulla, non è uscita notizia neanche su quello che è successo dopo, e chiediamoci perché. E sempre per terminare insomma la riflessione sull'Aquila, volevamo esprimere la nostra solidarietà all'avvocata Simona Giannangeli, che sul parabrezza della sua macchina ha trovato delle minacce che dicevano appunto: ti passerà la voglia di difendere le donne, stai attenta a guardarti sempre le spalle, da questo momento questo posto non è più sicuro per te. Diciamo che questo poi mi fa venire in mente una cosa diciamo molto più grave, ma il filone più o meno è lo stesso. Anni fa un'avvocata che difendeva i militanti dell'IRA aveva ricevuto minacce e poi è stata fatta saltare in aria con la macchina. Un avvenimento di questo tipo chiaramente è successo in un ambito fortemente militarizzato, di forti tensioni sociali, eccetera. E non mi stupisce affatto che delle minacce di questo tipo avvengano in una situazione come quella dell'Aquila, in cui evidentemente la vicenda di Tuccia non coinvolge una persona in particolare, ma un intero ambito, un'intera modalità e un intero settore del controllo sociale della zona. Infatti questa condanna sembra quasi che diciamo ogni tanto qualcuno deve essere condannato per permettere agli altri di per non mettere in crisi, no? Cioè, adesso viene assolto, questa volta Tuccia no, gli si danno soltanto 8 anni, però proprio certo, per proteggere in realtà quel sistema, si dice che è lui la mela marcia, no? Certo, oltretutto. E in ogni caso ricordiamoci sempre che in effetti cambiare una mentalità e una cultura non è possibile attraverso le petizioni di principio, la buona volontà personale o cose di questo tipo. È capire da dove vengono determinati valori, dalla strutturazione sociale che si fonda sulla strutturazione economica, e quindi il battersi contro la violenza sulle donne significa innescare i meccanismi di scardinamento dei valori che sono alla base e che rispondono poi alla strutturazione sociale e quindi alla configurazione dei ruoli in questa società. Quindi non è che attraverso una petizione di principio, un appello alla giustizia. Non parliamo poi del fatto di richiedere pene più severe o roba del genere, che è addirittura prima di tutto è contrario a ogni nostro principio, ma è anche una mancanza di comprensione di quali sono i meccanismi che portano appunto alla determinazione delle pene, che non sono né personali del giudice né culturali in senso lato della società, ma rispondono a precise prese di posizione di questa società che ha bisogno di una strutturazione di questo tipo. Safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light, and love, and care for every human being. open life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of life. Death is small. Sempre a proposito di violenza, volevamo dare la notizia di una donna somala che aveva subito una violenza da parte delle forze di sicurezza del campo profughi di Mogadiscio. È stata invece condannata ad un anno di carcere per oltraggio alle istituzioni. Questo significa che questo tipo di reati in effetti sono un benefit delle cosiddette forze dell'ordine. Cioè la tolleranza nei loro riguardi non è casuale o comunque non è dovuta a atteggiamenti particolari, fa parte proprio di un pacchetto per cui loro non vengono assolutamente perseguiti, fa parte di un pacchetto di benefici la tolleranza verso tutto questo tipo di reati e di atteggiamenti di prevaricazione di violenza. Sì, oltretutto non deve essere conosciuta la storia, quindi non se ne deve parlare, anche perché proprio per questo è stata inflitta la stessa pena anche al freelance che l'aveva intervistata e che quindi aveva reso pubblica questa violenza. Certo. concludere la prima mezz'ora dell'attualità, vi vorremmo ricordare che sabato 9 febbraio, questo sabato, è chiamato il corteo nazionale a Teramo dalle ore 15.30, sempre per le pesantissime condanne a 6 anni di reclusione e 60.000 euro di risarcimento inflitte lo scorso 7 gennaio ai 6 ragazzi accusati di essere coinvolti negli scontri avvenuti nella capitale il 15 ottobre del 2011. Azione Antifascista Teramo chiama all'appello tutti i gruppi, i movimenti e i singoli individui che si riconoscono nelle lotte e che vogliono dimostrare la loro solidarietà e vicinanza con i fatti oltre che con le parole. Per questo loro dicono appunto di scendere in piazza soprattutto con determinate finalità, tra le quali, proprio per legarci anche ai discorsi che facevamo sulla appunto repressione giudiziaria e le pesantissime condanne penali che arrivano, di appunto scendere in piazza oltre che per esprimere la massima solidarietà e rispondere in maniera forte e unitaria alla repressione, anche per lanciare la battaglia contro il codice Rocco, perché è ancora questo che legifera sulla nostra espressione del dissenso, quindi è un codice fascista, ed in particolare contro il reato di devastazione e saccheggio e tutte quelle leggi in forza delle quali ai singoli questori viene garantito il potere di limitare in maniera del tutto discrezionale e priva di controllo la libertà individuale attraverso l'emissione di fogli di via, avvisi orari e misure di prevenzione in generale. Per chiunque volesse appunto recarsi a Teramo per questa assemblea, per questo corteo nazionale, c'è anche può fornire contributi, c'è un indirizzo mail, teramo 9 febbraio 2013, 9 e 2013 scritto a numero, @gmail.com. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Plebaglia È importante affermare che non tolleriamo più le infrazioni minori. Il principio di base sta qui nel dire: sì, è giusto essere intolleranti verso i senza tetto nelle strade. Tony Blair, The Guardian, 10 aprile 1997. Denunciata senza capirlo, processata senza saperlo, condannata senza mai difendersi, ricercata senza mai nascondersi. Così comincia un articolo di un quotidiano a tiratura nazionale raccontando la vicenda di Anna, una donna rumena di 29 anni che è stata arrestata e condotta in carcere perché condannata a 6 mesi di reclusione dal Tribunale di Milano per accattonaggio con minore. Lei ha 3 figlie e finalmente, dopo tanti stenti, una casa in affitto e un lavoro quasi vero. Ma nel 2006 era stata notata alla stazione della metro di San Babila a Milano mentre presumibilmente chiedeva la carità con una bambina e le erano stati chiesti i documenti. La cosiddetta giustizia ha fatto il suo iter e l'ha scovata. È mai possibile che possa essere previsto il carcere perché una persona chiede l'elemosina con la figlia? E ora che è stata portata in carcere, che fine faranno le sue figlie? Se ne occuperà la nostra società tanto buona attraverso gli assistenti sociali e le case famiglia? Ormai tanti tribunali per i minori in tante città tolgono i figli alle madri per i motivi più disparati, ma quasi tutti riconducibili all'indigenza, tanto che possiamo dire di trovarci di fronte ad una pratica consolidata. Tutta una miriade di comportamenti, alcuni ascrivibili come reati minimi, altri soltanto come scelte fuori dalla norma, quali l'ubriachezza, i rumori molesti, depositare i rifiuti fuori posto, rovistarci, la mendicità, l'offesa al pudore, il vaneggiare, l'urinare per strada, le scritte sui muri, la prostituzione, l'abbigliamento succinto, non avere casa, vivere all'aperto, sono considerati buoni motivi per essere fermate o arrestate. Il tutto fa parte di una cultura giuridico-politica che nasce dal principio che la povertà è una colpa. I traghettatori intellettuali hanno formato le nuove categorie, hanno stravolto i luoghi comuni semantici e ci hanno raccontato che la sicurezza non è più quella del posto di lavoro o di una serena vecchiaia, ma quella di un cittadino e di una cittadina intimoriti dalla violenza diffusa, attualizzazione della paura della plebaglia di vittoriana memoria, per cui gli oppressi sono fatti percepire come un indistinto senza connotati di classe, ma con forti tratti di pericolosità sociale. Si fa passare per nuova, scientifica e neutrale la vecchia e sempre utilizzata politica di pulizia-polizia classista, che stabilisce l'equivalenza fra l'agire fuori dalla norma e l'essere fuori legge e prende di mira quartieri, soggetti, strati sociali che considera ed etichetta per principio. La povertà e l'emarginazione hanno una gestione poliziesca. È una società che rinuncia a costruire posti di lavoro, ma crea sempre nuovi commissariati, aumenta gli istituti penitenziari e fa crescere in maniera esponenziale i costi per le polizie. Adesso che Anna è finita sui giornali, forse vedrà risolto il suo problema, perché Anna si è integrata, è riuscita a trovare casa e lavoro, e questa l'assolve, almeno in parte, agli occhi dei e delle benpensanti. E saremo contente per lei. Ma non è questa la strada che permetterà ai tanti alle tante, ai troppi alle troppe che sono costrette a chiedere l'elemosina, di avere un destino meno tragico. La società di solito si autoassolve attraverso saltuarie azioni umanitarie che le permettono di lavarsi la faccia e di lasciare tutto il resto come sta, anzi come vuole che stia. Cerchiamo di innescare meccanismi di uscita da questa società. Ciao. questa seconda parte di approfondimento vorremmo parlare di percezione del femminismo. Ci è venuto in mente questo approfondimento a partire da due notizie che ora ci vi leggeremo. Comunque, per introdurre un po' il discorso, scusatemi, adesso abbiamo avuto un problema, il mio microfono ha smesso di funzionare, quindi vi stavo parlando dell'approfondimento che vorremmo fare in questa seconda parte della trasmissione, che ci è venuto in mente a partire da due notizie che abbiamo letto questa settimana, cioè che dopo vi leggeremo. Vorremmo parlare di percezione del femminismo, cioè di come viene nel linguaggio comune, nell'immaginario comune, anche quindi nelle scoloriture, diciamo, in cui è riportato dalla memoria collettiva, quella più come schiacciato il femminismo, schiacciato su l'emancipazionismo, cioè visto come soltanto dalla prospettiva dell'emancipazione e della parità, quindi dei diritti delle donne rispetto agli uomini, e tutto questo parlando ovviamente di genere come un'identificazione con il sesso biologico, e anche come e quindi tutto quello che comporta anche per esempio a livello lavorativo, un approfondimento che avevamo fatto un paio di settimane fa e che però da queste notizie anche ci è tornato in mente, perché appunto questi articoli parlano del rapporto uomo-donna, delle dinamiche relazionali, ma anche dell'integrazione nel tessuto produttivo, come a dire che adesso i valori che riescono più a portare avanti e riprodurre questo sistema economico sono proprio quelli più femminili. Quindi vi accenniamo e vi leggiamo queste notizie per poi commentarle. Sì, allora la prima notizia riguarda un libro scritto dalla filosofa americana Kristen Hoff Sommers, in cui lei fa tutta una riflessione su come sono modificati i comportamenti delle ragazze e dei ragazzi. E, dicendo che appunto le ragazze leggono di più, sono più brave nella scuola, nella musica, e tutte le attività sociali, e questa maggiore consapevolezza, maggiore bravura, diciamo, di queste delle ragazze ha portato invece a uno scombussolamento, diciamo, di quelli che erano i ruoli prestabiliti, e quindi lei è molto preoccupata, e si dice preoccupata di quello che è il ruolo maschile, che quindi ha perso i suoi connotati di forza, di maggiore capacità. E, secondo quindi questa filosofa, bisognerebbe quindi ridare anche ai maschi quello che gli è stato sottratto dalle donne, e riattribuire anche a loro un modello da seguire per essere poi di fondo più produttivi, sia quindi dal punto di vista, diciamo, per partire dal punto di vista formativo, che sia poi funzionale una volta entrati nel mondo del lavoro. E tanto è vero che, per esempio, questa chiamiamola filosofa, autrice, non so come definirla, si lancia in suggerimenti, dice che fare se i maschi ormai sono in eclissi e se praticamente sono scombinati da questo questa maggiore capacità che hanno acquistato le donne, no? E dice: sembrerebbe facile, ma facciamo per i maschi quello che è stato fatto per le femmine e rimettiamo a posto le cose, perché i maschi poverini non hanno più un modello, e anzi in questi anni è successo che sono andate a cercare un'eccessiva femminilizzazione, cioè sono stati spinti a ricercare l'emotività, essere meno violenti, più accudenti, no? E sono stati fatti crescere come ragazze, e invece bisogna dargli un nuovo modello maschile. E questa, diciamo, la prima cosa che mi viene in mente leggendo questo tipo di posizione è che, guarda caso, risponde all'attacco a tutto campo che viene portato nei confronti di tutta una serie di modalità di vivere la vita che si erano riuscite a impostare, diciamo, fin dagli anni 70 fino agli anni 80. E poi negli anni 90 è cominciata questa deriva. Cioè, non è casuale che qualcuna si metta di nuovo a difendere i maschi e a riproporre i modelli, perché i modelli vengono riproposti a tutto campo, a cominciare dal mondo del lavoro, i modelli, i ruoli, gli stereotipi, e quindi il fatto che serva di nuovo il modello maschile come si deve, e il modello maschile attivo e non più, diciamo, accomodante, non più sentimentale, non più accudente come è stato portato avanti in questi anni, è perché anche nella società si cerca di ricostituire i ruoli addirittura per il 68 degli anni 50. Questo sì, a me fa venire in mente anche un'altra cosa, e cioè che, visto il fatto appunto che il femminismo si è schiacciato e comunque, diciamo, a livello di opinione pubblica e di storia con la S maiuscola, nel senso non fatta certo dai movimenti e dal basso, ma dagli organi di potere e quindi dai grossi poteri transnazionali, c'è stato un massiccio ingresso delle donne in tutti i campi lavorativi e nella gestione del potere, che ha portato... da una parte a quello che diciamo sempre, no, essere stata la femminilizzazione del lavoro, e quindi alla riproposizione di tutti quel lavoro di cura e quella l'ottica molto sacrificante, no, che ti vede votata o votato in tutto e per tutto alla tua attività, no, che tu sia madre o che sia lavoratrice, devi mettere lo stesso. Però dall'altra hanno anche, cioè queste stesse donne in realtà erano soltanto un volto femminile per portare avanti le stesse identiche politiche di, ad esempio, aggressione imperialista o repressione del dissenso, o politiche neoliberiste a livello economico. Cioè è stata semplicemente un po' un maquillage del sistema politico, no? Quindi è come se adesso che si interpreta questo ingresso del... Questa nuova ruolo sociale della donna, come se fosse stato un ottimo meccanismo di ricapitalizzazione per affermare valori ancora più aggressivi di quelli che c'erano prima. Cioè, adesso la donna ha sostituito l'uomo nell'aggressività. Adesso l'uomo dice di avere un problema perché la sua aggressività non è più neanche paragonabile a quella della donna, e quindi c'è la legittimità per diventare ancora più aggressivi, no? Non certo, so se... infatti l'altro articolo parla proprio di questo: il dilemma della donna capo, usare armi maschili o femminili? E dice: c'è un bel paradosso che complica la vita delle donne che arrivano ai vertici della carriera, e che per lo più ci arrivano in quasi solitudine di genere, perché molte altre delle altre compagne di strada, che copiose avevano cominciato a lavorare assieme a loro, hanno poi via via abbandonato l'agone per varie ragioni, per lo più legate alla famiglia. No? E loro, queste donne che sono arrivate, devono sviluppare qualità, attitudini e comportamenti maschili, determinazione, decisione, grinta, autorevolezza, lavoro duro. Però che cosa succede? Che alle donne però viene chiesto anche di avere doti di empatia, di sostegno, di sensibilità, di apertura verso gli altri. E quindi da una parte c'è la donna capo che deve ribadire necessariamente i valori maschili, perché per andare avanti in questa società necessariamente deve ribadire i valori maschili, però allo stesso tempo dovrebbe essere portatrice di valori diversi. A me viene sempre in mente vengono sempre in mente dei convegni che sono stati fatti aiuto sulle operatrici che lavorano nelle carceri, cioè direttore, secondine, poliziotte eccetera, perché dovrebbero essere in grado di umanizzare le carceri, e questi sono stati fatti più di una volta l'anno scorso, perché dovrebbero essere portatrici di un'umanizzazione, come se i ruoli non fossero quelli che sono e le istituzioni fossero riformabili. Ecco. Però per ricollegarmi a quello che diceva Margherita prima, in effetti il femminismo, cioè questo è percepito come femminismo. Ma infatti mi viene in mente proprio questo articolo, si apre con in solitudine arrivano a posizioni di potere, in solitudine di genere, no? Si usa quindi genere semplicemente come sinonimo di sesso femminile, no? Certo. E quindi significa che questa solitudine di genere poi dà tutti i suoi frutti, se intendiamo così il genere, perché si arriva nelle posizioni di vertice e a quel punto, visto che le tue sottoposte sono donne che hanno bisogni legati proprio alla loro fisiologicità, alla loro biologia, tipo maternità e cose di questo tipo, faticano, cioè nel senso, questo per dire che fino a quando non si farà chiarezza, no, su che cosa vuol dire il riconoscimento di genere, si intenderà soltanto dal punto di vista biologico, ma non invece, cioè completamente epurando il femminismo da quella che è la sua componente fondamentale, cioè essere un percorso di liberazione e dunque necessariamente legarsi ad altro tipo di lettura. Certo, quindi quella che noi in effetti ancora nel convegno dell'anno scorso avevamo chiamato la presa di coscienza di genere, in effetti, no? Oppure appunto quando si dice quelle che non hanno genere, la rubrica che fa Dennis, no, ma hanno la classe, appunto fino a quando si dice che invece il genere è semplicemente la donna in quanto donna, insomma con la gonna, che diventa capo, non si aprirà mai a un riconoscimento, cioè non è possibile la trasversalità, e invece è quello che loro ti dicono. Che loro, no? Ti dicono, cioè, esatto. Te lo dicono in Parlamento, per esempio, votate per le quote rosa, oppure sulle questioni bioetiche, tutte le politiche che devono essere d'accordo tra di loro, che siano de destra, de sinistra, de centro, uguale. Certo, tant'è vero che questo ci aveva spinte a chiederci come mai il femminismo è stato appiattito su queste modalità, o meglio ancora come mai questo viene chiamato femminismo. E infatti nell'incontro sulla memoria che abbiamo fatto il 15 dicembre abbiamo cercato proprio di affrontare nei temi, cioè in vari modi, nel senso ci sono stati tanti interventi, di affrontare come e perché possa essere successo questo, dov'è che si è interrotto il meccanismo di percezione che il femminismo è liberazione e non emancipazione. Nel senso che c'è una tradizione femminista consolidata che viene addirittura dalle suffragette, voglio dire, non è soltanto un ribadire il femminismo degli anni 60, i prodromi degli anni 60 e poi degli anni 70, ma il femminismo è portatore di valori di liberazione, e i valori di liberazione sono sempre antagonisti al sistema in cui ci troviamo, necessariamente, perché il sistema poi ti usa e ti appiattisce in questo modo. Invece praticamente noi ci troviamo di fronte a una trasmissione del sapere che è completamente alterata. Allora, questa trasmissione delle modalità del sapere, dell'anima femminista, che sono state completamente alterate, noi ci siamo chieste in che modo questo sia potuto avvenire, come possiamo riappropriarci dell'enorme patrimonio che abbiamo ricevuto in eredità dal pensiero e dall'azione femminista, e come può essere riannodato questo filo di memoria praticamente nella consapevolezza che il femminismo appunto è liberazione e antagonismo rispetto a questo modo di organizzare il sociale, la società. While everyone is yawning and the day is young in morning Morgantown. Morning Morgantown, buy your dreams a dollar down. Morning any town you name, morning's just the same. Find a table in the shade and sip our tea and lemonade and watch the morning on parade in morning Morgantown. Ladies in their rainbow fashions, colored stop and go lights flying. Sì, ecco, prima di salutarvi volevamo intanto cominciarvi a dire che il 14, che è un giovedì, stiamo organizzando al 22, in via dei Volsci 22, un incontro che si incentrerà, diciamo, che avrà come tema quello dell'amore romantico che uccide. Praticamente è un tema che ci ha molto colpito ancora dall'anno scorso e ci abbiamo ragionato su molto, su degli input che ci hanno mandato le femministe spagnole, le feministas indignadas spagnole, perché loro hanno analizzato tutta una serie di meccanismi per cui alla bimba fin dalla nascita, alla ragazza poi, e comunque alla donna, viene inculcato il mito dell'amore romantico, la sensazione che nessuna di noi può essere completa se non ha trovato la sua metà, che praticamente ci hanno spinte a pensare che da sole non siamo in grado di avere una vita completa, che dobbiamo aspettare questo principe azzurro e che la nostra vita dovrà essere in funzione della ricerca dell'altra metà. Allora, è chiaro che questi non sono tutti discorsi diretti, ma sono discorsi che ci vengono propagandati in svariatissimi modi, anche molto poco evidenti, molto poco eclatanti, ma è un continuo bombardamento. Tant'è vero che poi è una delle ragioni per cui le donne, per esempio, non riescono a chiudere i rapporti, no? Perché hanno sempre questo mito, si colpevolizzano da una parte perché non sono riuscite a portare avanti questo bellissimo rapporto che dovrebbe essere d'amore. In secondo luogo hanno sempre paura di una relazione che finisce, di qualcosa. È proprio un fallimento, cioè è il più grande fallimento della propria vita, no? Cioè in questo sistema, a me ogni volta che parliamo di amore romantico mi viene in mente appunto il matrimonio, cioè un'unione indissolubile, un vincolo morale altissimo per cui c'è la condivisione su tutto, che però appunto da molte femministe viene sempre messo come controaltare del matrimonio quello della prostituzione, no? O come meccanismo necessario di un'unione così indissolubile sono che le frustrazioni vengono sfogate in maniera proprio violentissima all'interno di quella coppia, perché appunto per pensarne una fine significa aver fallito nella cosa più importante della propria vita. Non solo, ma poi qui si innescano anche meccanismi di violenza all'interno della coppia, proprio perché nella consapevolezza dell'importanza che si dà a quel rapporto si delega anche alla controparte, in questo caso la parte maschile, una diciamo capacità di, cioè è come se fosse giusto che lui avesse il possesso di parte di te, e se, e questo possesso è dovuto all'amore che lui ha per te, al fatto che anche lui ha cercato la sua metà, al fatto che voi siete, che due sono complementari, al fatto che se succede qualcosa magari hai sbagliato tu. La richiesta nel migliore dei casi, no? Anche non nel caso appunto in cui sfoci in delle richieste di possessività anche esplicite, nel migliore dei casi comunque un rapporto impostato così è comunque una continua richiesta di riconoscimento tra due identità, sì, che continuano a giocare però in uno schema molto dicotomico tra di loro, no? Quindi il maschio rappresenta tutti, cioè incarna i valori, gli ideali, le tensioni positive e negative del maschile, la donna dall'altra parte. Ci si possono anche scambiare questi ruoli, ma anche scambiandoseli non, certo, si esce da quei, sì, binari. E infatti proprio per questo noi stiamo impostando la giornata di San Valentino sul tema l'amore romantico uccide. Vi faremo sapere la prossima volta come la stiamo definendo. Sicuramente sarà un pomeriggio di dibattito, di confronto, su cui stiamo lavorando un bel po'. E poi ci sarà magari serata, aperitivo, una zona ludica. Intanto volevamo ricordarvi i nostri indirizzi per scriverci: coordinamenta@chiocciolaautistiche.org. Andate sul nostro blog www.coordinamenta.noblogs.org per tutti gli aggiornamenti. E vi ricordiamo anche sul sito di Onda Rossa, www.ondarossa.info, potete trovare tutte le modalità per supportare economicamente questa radio, che non ha padrine e non ha padrone. Ciao! This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Oh, honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Feel now, all the sweet tears are gone to the other side with my hands like a baby. There must have paid her a nice price. She's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is.